Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. E dunque, chi si attendeva che le elezioni greche, per carità, ci sono ancora molte incognite nel futuro, però, e soprattutto anche il rafforzamento del partito di governo in Francia, i socialisti, quindi hanno avuto anche una maggioranza ampia nella loro assemblea, potesse portare un po' più di calma, viste anche le varie dichiarazioni di intenti che arrivano dal G20. Beh, insomma, è rimasto parecchio deluso, perché dopo un abbrivio, un rialzo iniziale, le borse sono tutte negative. Devo dire, resiste, ma pochissimo, Francoforte che è 0,07, Parigi cede lo 0,86%, Milano, allora, c'è lo stacco cedere, lo stacco dei dividendi che pesa per un 1,2%, stando a quanto ci riferiscono appunto le agenzie, però non basta questo a spiegare, perché la borsa di Milano perde il 3%, leviamo anche un 1,2% e siamo comunque all'1,8% di calo. Londra più 0,25%, l'America meno 0,25%, euro quota 1,2571. Io ho sempre guardato con scetticismo a chi in qualche modo si illudeva che bastasse il voto greco, che finché quando non arriveranno risoluzioni e decisioni definitive, quindi il Consiglio europeo del 27 giugno, speriamo, indicazioni chiare che l'Europa va verso una certa strada, l'attacco continuerà, e continuerà proprio sui titoli bancari. E oggi l'oggetto però delle attenzioni, se così possiamo chiamarle, è di nuovo la Spagna. Perché? Perché lo spread spagnolo è schizzato a livelli obiettivamente ingestibili, di nuovo preoccupazioni sulla tenuta del sistema bancario spagnolo. Sembra che a questo punto ci siano 150 miliardi, ne parleremo più avanti, di sofferenze sulle banche spagnole. Attenzione su questo, però anche lo spread spagnolo denota un andamento a 574 punti, il rendimento dei bonus di Madrid è quindi al 7,1%, cioè ha superato il rischio misurato dallo spread, quanto costa la Spagna indebitarsi rispetto alla Germania, ha superato il rischio Irlanda, paese, lo ricordo, che è sotto salvataggio della Troica, quindi Banca Centrale Europea da un lato, Fondo Monetario e Unione Europea. Ancora, per quello che riguarda gli altri spread, adesso li daremo. In Italia ci sono dei dati che riguardano anche il risparmio delle famiglie, parleremo di tutto in apertura sostanzialmente. 349-238-6666 per i vostri SMS. Dicevo della Spagna che ha superato l'Irlanda, i rendimenti al 7%, il tasso di insolvenza delle banche spagnole è a record dal 1994. Siamo all'8,72%, il totale dei crediti dubbi, di dubbia esigibilità, cioè soldi che le banche hanno prestato ma difficilmente o con molta difficoltà potrebbero avere indietro, tocca appunto i 152 miliardi, era dal 1996 che non si raggiungeva questa cifra, e voi capite che a questo punto alcuni respingono tra le sale operative, vedo già molte domande, l'idea di un punto di non ritorno. Però altri dicono attenzione, ormai la Spagna ha superato il 7%, la soglia del 7% è quella famosa, perché ne parlammo a novembre, in cui si considera che il paese non ce la farà più a ripagare il suo debito, a maggior ragione se è in recessione come la Spagna. Nel frattempo, dicevo, il G20 di un anno fa vide come grande malato sotto osservazione l'Italia, lo ricorderete, quello di Nizza. E c'era ancora il governo Berlusconi, con uno scambio abbastanza pesante anche tra Berlusconi e Tremonti, ma soprattutto in Italia Berlusconi accusò Tremonti dopo di non averlo portato, difeso nel vertice di Nizza. Ma detto ciò, in questo momento perlomeno non è l'Italia sotto i riflettori, è la Spagna ed è la Grecia. Magra consolazione, ha parlato anche il premier Mario Monti, ha detto i mercati sono convinti che non basterà salvare solo la Grecia, e noi continuiamo a dirlo, nel senso che la Grecia è stata un bellissimo modo in cui l'Europa ha scoperto tutte le sue debolezze e ha mostrato le sue debolezze verso il resto del mondo. Pensare che adesso, dopo 2 anni, che continuiamo a dire la Grecia però la teniamo solo se fa i compiti, e comunque in cui abbiamo adottato politiche assolutamente cicliche, cioè un paese in recessione siamo andati a creare ancora maggiore recessione, pensare che basti solo la Grecia è fuorviante. Ormai, dai, grazie anche alla testardaggine tedesca, siamo arrivati a ragionare sulla Spagna. E finché non ci sarà una banca centrale europea, visto che mi chiedete secondo me cosa servirebbe una banca centrale europea che garantisce su tutte le banche o le principali banche dell'area euro, non ne usciamo. E poi anche finché non si arriva obiettivamente a una banca centrale europea che potrà stampare un po' di moneta e creare un po' di inflazione. Io non capisco perché dobbiamo vivere con un'inflazione al 3%, che è solo tutta inflazione importata da petrolio. Parleremo anche di petrolio, lo faremo con il presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, il mitico Pasquale De Vita, che oggi ha detto, insomma, attenzione, qui il vero problema è che la raffinazione è ferma, e da un altro lato ha detto pagheremo quest'anno un record nella fattura, nella bolletta petrolifera, anche se consumiamo meno petrolio dell'anno scorso, meno benzina e meno gasolio. Il rapporto euro-dollaro fa sì che pagheremo una bolletta energetica, cioè quello che l'Italia paga per approvvigionarsi di energia, a 66 miliardi, di cui 37 solo per approvvigionarsi di petrolio. 66 miliardi, l'anno scorso furono 62,7 miliardi. Questo perché, nonostante noi si consumi meno, perché c'è la crisi, i prezzi sono i massimi, il rapporto euro-dollaro è più sfavorevole quest'anno. L'euro è 1,25, l'anno scorso viaggiava a 1,35, 1,37 nei confronti del dollaro. 349-238-6666, le altre notizie di questa giornata economico-finanziaria. Allora, ha ragione chi scrive le speculazioni sulle debolezze europee tornano comode per coprire le debolezze americane. Ha ragione, perché se noi andiamo a guardare i fondamentali, come si chiamano in gergo, l'America ha un deficit ben più alto del nostro, ma molto più alto, un'inflazione che è doppia, ha stampato moneta a go-go e quindi prima o poi dovrà rientrare anche dal suo deficit. Siamo d'accordo. Il problema è che è come quando in classe interrogano due studenti, uno magari è anche meno preparato dell'altro, ma se l'altro le fa tutte per far capire quanto non è impreparato, e invece quello che era anche meno preparato in qualche modo cerca, ha atteggiamenti accomodanti, è ovvio che poi l'insegnante bastoni quello che si svela. Noi, pur avendo dei fondamentali, a mio avviso, e non solo a mio avviso, i migliori di quelli dell'America, a parte la crescita economica, ma abbiamo fatto il possibile per far capire al mondo che tutto siamo tranne che un'area politicamente omogenea che sa come prendere decisioni rapide e veloci. Siamo un'area bloccata da una moneta unica, senza che però la moneta unica voglia poter dire una banca centrale europea veramente unica, spese per investimenti veramente uniche. È un po' di solidarietà, non si è mai visto che chi si è ha fatto i compiti a casa, ma si è arricchito da questa crisi. La Germania, tra lo spread, tra i tassi di interesse bassissimi, quindi il rifinanziamento a costo zero, i capitali che volano verso la Germania perché pur di non stare investiti in bot vanno in Bund, anche se ci perdono il 2% netto, e un euro che è più debole del marco, quindi mentre per noi l'euro è molto forte, anche per gli spagnoli, quindi esportare è difficile, la Germania ha ottenuto un euro che è più debole del marco, quindi ha anche un vantaggio valutario, avesse il marco esporterebbe di meno. Guardatevi il bellissimo articolo di Moria Longo la settimana scorsa sul Sole 24 Ore, tutto il vantaggio nella bilancia commerciale che ha avuto la Germania da quando l'euro è euro e quindi vale meno del marco. Beh, insomma, è nella situazione perfetta. Ora che un ricco che sta guadagnando chieda al povero di ridargli i soldi, abbiate pazienza, non si è mai vista, su. E poi qualcuno si ricorda cosa fece Mitterrand nei confronti del debito dei paesi del terzo mondo? C'è la politica di dire cancelliamo il debito pregresso. Cioè, quando tu hai dei debiti così alti, è ovvio che se tu chiedi a qualunque persona di rientrare, questo fallisce e basta, e tu perdi tutto e non decolla più quell'economia o quella persona. Allora, con la Grecia, vogliamo continuare a chiedere ai greci di ripagare tutto quello che tanto non riusciranno a pagare, visto che perdono il 4% di PIL anche quest'anno, forse il 5%? O diciamo, vabbè, adesso ti metti in riga ti controlliamo noi i conti, tu non tocchi più un euro, ma facciamo, cioè, ti cancelliamo parte di quel debito, tanto comunque non lo riesci a avere, ma almeno metti chiarezza, no? Ancora, sì, poi c'è chi scrive Merkel forever, fancazzisti e sperperatori al rogo. Va bene, ma va bene. Se l'idea è ormai che tanto l'euro si debba sciogliere, va bene. Faccio notare che a chi obietta perché la Germania dovrebbe pagare per i nostri lussi, intanto perché non ci siamo messi a fare i compiti, ma in secondo luogo perché allora sulla base di questo principio il nord non dovrebbe più versare un euro al sud Italia, perché a questo punto no, non hanno fatto i compiti. Altra cosa è chiedere che si metta in riga, chiedere che i trasferimenti vengano fatti in maniera produttiva, non fare la cassa del mezzogiorno. Nessuno vuole la cassa del mezzogiorno per la Grecia, per la Spagna, per il Portogallo, ma non si può dire arrangiatevi, sennò si spacca in due paesi con anche tensioni sociali da non poco conto. Ecco, non si capisce perché la Germania possa dire no, noi ci stiamo arricchendo con questa crisi e vogliamo continuare a farlo, chi se ne frega dei greci, dei portoghesi, dai. Ancora brevemente due notizie, poi passiamo ai temi di maggior rilievo. Lo strappo dell'ENI, cioè l'abbassamento di 20 centesimi della campagna di riduzione nei weekend estivi, sabato e domenica, porta a una sana concorrenza con gli altri operatori. Anche esso ha deciso di abbassare i prezzi nel weekend. Kuwait ha messo in mano ai listini del fine settimana. E ancora invece, per quello che riguarda la giornata economico-finanziaria, ci sarà l'incontro al vertice del G20 tra Barack Obama e Angela Merkel all'1:30 ora locale, alle 21:30 in Italia praticamente. Lo ha fatto alle 13:30 ora locale, lo ha fatto sapere la Casa Bianca. Avverrà il vertice. Mario Monti, come citavo, ha detto che i mercati sono convinti che non basti solo la Grecia, che l'Unione Europea non è la fonte del problema, il problema nasce altrove, da squilibri con altri paesi, tra cui gli Stati Uniti. E adesso, prima di passare al primo tema, un paio di notizie che riguardano la crisi degli altri. In realtà sono dichiarazioni del mitico sottosegretario Polillo, che ogni tanto parla, a mio avviso, leggermente troppo. Ma insomma, mettiamo assieme due cose: il crollo del risparmio delle famiglie e Polillo che dice attenzione, bisogna che facciate meno ferie. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Dunque, crolla il risparmio delle famiglie italiane, il 38% riesce a risparmiare contro il 47% dell'anno scorso, meno 9% in un anno. E tra l'altro diminuisce il saldo tra chi ritiene che è sufficiente il suo reddito e chi no. Adesso siamo al 53% contro il 45%. Il 46% delle famiglie italiane ha cominciato a intaccare i propri risparmi e a erodere la ricchezza accumulata negli anni. Questo emerge dal centro di ricerca Luigi Naudi, un rapporto elaborato per Intesa San Paolo. Il tema dominante della ricerca è il disorientamento delle famiglie e la loro difficoltà nel guardare al futuro. Lo ha spiegato molto bene un ospite che spesso abbiamo, sia il capo economista di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice. Nel frattempo però c'è il sottosegretario Polillo che se n'è uscita con delle dichiarazioni un po' interessanti dal punto di vista economico. Vabbè, stiamo vivendo sopra le nostre possibilità, immagino si riferisse in primo luogo alla classe politica italiana e ai costi della politica in generale, regioni, province, comuni, Parlamento. Per sostenere i nostri consumi interni abbiamo bisogno di prestiti esteri che negli ultimi anni sono stati pari a 50 miliardi di euro l'anno. E vabbè, questo gap lo possiamo chiudere o riducendo ulteriormente la domanda interna, cioè i consumi, che già sono ai minimi, oppure aumentando il potenziale produttivo. Non possiamo più permetterci questo andamento con gli spread attuali. Ho capito. Soluzione? Aumentare il tempo di lavoro per far ripartire la produttività. Nel brevissimo periodo lo shock può avvenire dall'aumento dell'input di lavoro. Ossia, lavoriamo mediamente 9 mesi l'anno, credo che ormai questo tempo sia troppo breve. Se rinunciassimo a una settimana di vacanza, avremmo un impatto sul PIL immediato di circa un punto. Allora io faccio una proposta, Polillo, ma insomma, se il problema fosse rinunciare a una settimana di vacanza, se le imprese avessero così tanti ordinativi da sbrigare, io penso che in una contrattazione aziendale seria si potrebbe dire: guardate, lavori una settimana in meno, lavori in un altro periodo, lavori una settimana in più, abbiamo bisogno di produrre. Il dato che noi abbiamo dell'Istat dei primi tre mesi dell'anno dimostra che sono in crollo verticale gli investimenti, gli ordinativi, la produzione. Cioè il problema non è che la gente lavori troppo poco in fabbrica, è che le fabbriche non hanno ordini ordinativi, si è bloccata di nuovo il fatturato della produzione industriale. Polillo, li teniamo anche una settimana in più, va bene, però se poi non ci sono gli ordinativi, cosa fanno in quella settimana? Giocano a briscola in fabbrica? Non so, ma ci rendiamo conto se fosse questa la soluzione? Il Nobel a Polillo lo candidiamo noi. Un applauso per il sottosegretario Polillo, che dice: basta lavorare una settimana in più, il PIL cresce dell'1%. Poi è ovvia la battuta che sta arrivando: poi lì lo lavori lei una settimana in più, vediamo, magari lavorerà anche due settimane in più, bisogna capire a che livello di produttività partiamo. Dopodiché, ripeto, se fosse il problema solo questo, qualunque azienda in contrattazione di secondo livello chiederebbe: per favore, restiamo aperti una settimana in più, abbiamo tanti ordinativi. L'hanno fatto nel passato, no? Ma sarebbe bellissimo questo, vorrebbe dire che gli ordinativi sono in aumento, i fatturati anche, l'export tira, sono ripartiti i consumi. A Polillo, ma dove vive? Poi 9 mesi, ma chi è che gli fa 3 mesi di vacanza? I cassi integrati? Chi è in solidarietà? È sicuro Polillo di quello che dice? Un giro tra i capannoni nei distretti industriali non gli farebbe male. Troppa Roma Polillo, troppa Roma. Siamo anche scontrati in TV. Troppa Roma, faccio un giro. Vabbè, parliamo della Spagna così, no? Uno dice, almeno se parliamo di una cosa messa peggio di noi, ci sentiamo un po' meglio. Non funziona esattamente così, però Luca Veronese, Sole 24 Ore, che è spesso inviato in Spagna, buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Allora, io mi ricordo la famosa frase del ministro Monti, sembra un gioco, un videogioco: uccidi un mostro, ne spunta un altro. Se non ricordo male, parlava di qualcosa di... non mi ricordo quale videogioco, non sono un esperto, però... oggi siamo a 574 punti, la Spagna ha superato il cosiddetto punto di non ritorno, cioè quando tu devi offrire oltre il 7% per trovare finanziatori per il tuo debito. Siamo al 7,13%. Quello che capiscono tutti però è che la Spagna ha superato quanto a rischio anche l'Irlanda. Che è successo? Sì, è difficile parlare della Spagna e tirarci sul morale, no? No, oggi no, dicevo per contrario, almeno non siamo spagnoli, dopodiché... certo. Sembra che la cosa riguardi un po' tutti in Europa. In Spagna infatti oggi non è successo niente di straordinario, se non che sono arrivati i risultati delle elezioni greche, che dovevano sollevare il morale a tutti e che invece di nuovo hanno riaperto, per quel minimo di incertezza che comunque hanno dato, hanno riaperto i canali del contagio e è arrivata la botta prevista sui titoli spagnoli, che adesso sono davvero a livelli insopportabili. Erano insopportabili quando stavano poco sopra il 6%, l'aveva detto il Premier Rajoy, dicendo che così non si può andare avanti a lungo, sono arrivati diversi appelli. Adesso l'appello più urgente che continuano a fare della Spagna, la BCE, l'unica istituzione secondo Madrid che può dare subito liquidità al sistema e può dare anche la possibilità di sostenere il debito. Sembra che una soluzione o viene trovata a Bruxelles oppure la Spagna poco ci può fare in effetti. Allora, poi rispondo anche a chi dice, che giustamente spiega al sottosegretario Polillo che sono le aziende stesse a farti smaltire le ferie per carenza di commesse, perché comunque le ferie pesano sul bilancio aziendale se non le smaltisci. A chi dice siamo stufi di sentire la tua opinione, Barisoni, vabbè, cambi radio, che devo fare? Cioè, mica mi posso annullare, ho difficoltà a fare i segnali in conduzione. Ma Veronese, fammi capire una cosa però, cioè la Spagna ha ottenuto in maniera un po' difficile, un po' tormentata, 100 miliardi. Ora riparte l'attacco alla Spagna. Oggi abbiamo visto un dato per cui la Banca Centrale Spagnola ha informato che il totale dei crediti dubbi in portafoglio alle banche, cioè quei crediti che difficilmente potranno riavere è di 152 miliardi. Ma è questo il motivo che ha scatenato spread e borsa? Oppure semplicemente chiusa con la Grecia si passa al pesce grande? Secondo me, secondo quanto ci possiamo vedere seguendo di continuo le vicende spagnole, è la seconda che hai detto, come si dice, nel senso che è il contagio che prende dove riesce a prendere. Certo, non sto dicendo che la Spagna non ha colpe o non ci sono problemi, anzi, i problemi andranno ad aggravarsi da qui alla fine dell'anno sicuramente, però sembrava fatto apposta un piano da 100 miliardi per le banche e sembra il giorno dopo i mercati l'hanno bocciato, gli spread sono schizzati di nuovo, come a dire non bastano. E anche il dato sulla morosità dei prestiti era abbastanza previsto, cioè c'è un report e gli investitori li vedono queste cose, queste informazioni circolano, un report di Standard & Poor's della settimana scorsa che dice che ci vorranno almeno 4 anni per stabilizzare il settore delle costruzioni, che è la grande bolla che ha fatto crollare tutto in Spagna, 4 anni per stabilizzarla con perdite per le banche probabilmente intorno ai 260 miliardi nei prossimi 2 anni. E sono dati che circolano, che ci sono, magari con più ottimismo, con più pessimismo, anche a seconda di chi li fa, perché non è che queste società e queste grandi banche d'affari siano esenti da interessi privati e particolari, come è giusto che sia del resto. Però la situazione spagnola è sicuramente grave e si sa che è grave. E aggiungo che sui conti pubblici ci saranno notevoli tensioni nei prossimi mesi. La Spagna non riuscirà a rispettare gli obiettivi che si è prefissa e che al momento, come dice la Germania di Angela Merkel, sono gli unici trattati e gli unici accordi che sono stati messi nero su bianco, al di là poi delle richieste che vengono fatte nei confronti di Berlino, dell'Europa, dell'Unione Fiscale, Monetaria e Politica. Gli unici trattati, gli unici accordi fatti nero su bianco la Spagna non li riesce a rispettare. No, tra l'altro c'è anche una lettura interessante che poi girerò ai nostri prossimi ospiti sul perché le borse stiano non festeggiando anche il voto greco, perché dicono che con quel voto lì si dà forza alla Merkel e quindi continuerà l'agonia dell'Europa. Non lo so, è una lettura, diciamo, non ho nessun elemento per dire se sia corretta o no, ma è una lettura sicuramente. Sì, resto per concludere però, Luca, sempre un po' perplesso quando vedo che si chiedono 100 miliardi, allora sembra che con 100 miliardi la situazione, o sembrava perlomeno, si sarebbe potuta calmare, fai tempo a trovare questi 100 miliardi e riparte l'attacco, non tanto sulla borsa, parlo di spread e CDS in questo caso, alla Spagna. Allora, io dico, non è che continuiamo a rincorrere la speculazione mentre dovevamo anticiparla e probabilmente dare un taglio netto a tutto, e lì la soluzione unica è la BCE garantisce anche per le banche spagnole, italiane, tedesche, francesi, chiedo. Certo, che stiamo rincorrendo qualcosa senza riuscire a raggiungerlo, mi sembra evidente da ormai un paio d'anni. Che in Spagna si stia verificando una situazione purtroppo simile a quella greca è altrettanto evidente, visto che l'economia è in recessione, sarà in recessione per tutto un altro anno. Aggiungo che su questo prestito particolare di 100 miliardi alle banche, ecco, si poteva anche fare meglio, come ha detto oggi Zurich della Banca Mondiale, mancano i dettagli, non si sa bene come verrà dato, quali tassi di interesse, per quale durata, è anche difficile che gli investitori, diciamo quelli buoni, non speculativi, si fidino di una cosa del genere finché non viene definita, no? E quindi anche questo ha contribuito a creare delle tensioni, però è vero che il problema, anche tappando i buchi, le falle del sistema bancario o di tutta la Spagna, non è risolto, come abbiamo visto, e quindi è evidente che serve un cambio di passo, che poi si chiami debito in comune o si chiami Banca Centrale Europea, che fa finalmente quello che deve fare una banca centrale in un territorio definito come negli Stati Uniti o nell'Unione Europea, questo poi è da decidere. Sì, a me, se posso dare l'esempio, sembra un po' come quando tu rincorri sempre una malattia che ormai ha avuto un'evoluzione in un'altra fase, no? Magari bastava l'aspirina all'inizio, però adesso ci sono gli antibiotici, poi arrivi con gli antibiotici, devi andare a essere ricoverato. Oppure, se vogliamo usare anche un altro esempio, come quando in una coppia, cioè, tu fai sempre quello che ti chiede il partner, ma troppo tardi, no? Allora lei è già passata da un'altra fase. A questo punto dovresti tagliare la testa al toro e dire: senti, vogliamo stare assieme oppure no? Nel senso, nel caso specifico dell'euro, perché è inutile continuare a tirar fuori. Con la Grecia abbiamo fatto così: mesi di discussioni per tirar fuori 130 miliardi, ce ne sono costati quasi 2.000 miliardi di borsa quanto a svalutazione di borsa, e poi non è servito a nulla, perché tanto in quei mesi lì avevamo già dato la sensazione che comunque nessun paese era al sicuro nell'area euro, e via attaccare il Portogallo e l'Irlanda, poi via attaccare la Spagna, poi arriverà anche l'Italia, ma che dobbiamo fare? Chiedono gli ascoltatori perché la BCE non può stampare moneta, perché non è previsto il suo mandato, unica banca centrale al mondo che non può, perché i tedeschi non volevano. I tedeschi perché non volevano? Perché se stampi moneta crea inflazione. Certo, più moneta immetti nel sistema, più la gente tende a spendere, e più la gente spende, più aumentano i prezzi. L'ho spiegato in maniera molto semplicistica, però questo è il meccanismo, lo stampare moneta e rendere bassi il costo del denaro per generare inflazione. Allora, adesso ci trasferiamo a Los Cabos in Messico. Due risposte brevissime. In primo luogo, sulla esternazione di Polillo, sì, mi sembra una clamorosa gaffe. Il sottosegretario che dice se rinunciassimo a una settimana di vacanze il PIL aumenterebbe dell'1%. Fosse così, e ci mettiamo un secondo, in realtà con gli ordinativi, la produzione industriale, i fatturati in calo, gli investimenti in calo, il dato dei primi tre mesi dell'anno, Polillo se lo vado a rivedere, l'Istat l'ha pubblicato la settimana scorsa, ma cosa vuole che serva a tenere le persone una settimana in più in fabbrica se le fabbriche non hanno gli ordinativi? Ma lo deve spiegare lei questo però, E tra l'altro creando un danno, perché magari questi forse qualcosa consumavano in vacanza. In aggiunta, moltissimi di voi ci stanno segnalando al 349-238-6666 che sono le imprese o le società che ti chiedono di recuperare le ferie perché pesano sul conto economico. Così rispondo anche a qualche buon tempone, nel senso che non c'è niente da fare nella vita, che scrive sul sito di Focus Economia, sulla pagina di Focus Economia su Facebook. Ah, ma allora le ferie, attenzione, anche per esempio noi come Radio 24, come giornalisti, abbiamo un accordo aziendale per recuperare il più possibile le ferie da smaltire, ed è il motivo per cui il sottoscritto, come altri giornalisti e conduttori, dovendo recuperare le ferie, manca alcuni giorni in queste settimane, e non i motivi che qualche appunto così perdi tempo, scrive su Facebook. Abbiamo un accordo e siamo obbligati, tra virgolette, per accordo aziendale a recuperarle. Questa è la situazione che viviamo noi e che vivono centinaia di migliaia di imprese in questo paese, in cui le aziende ti chiedono di recuperare le ferie, e poi arriva Polillo e mi dice ma bisognerebbe lavorare una settimana in più. Ma glielo spiega lei l'ufficio del personale? Polillo, vabbè, andiamo allo Scabos, che è mejor, vai. Gerardo Pelosi e Mario Platero, due degli inviati del Sole 24 Ore per il vertice dei G20 allo Scabos in Messico. Hasta luego, Gerardo. Pronto? Allora, a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, immagino che non commenteremo la frase di Polillo, perché se fosse così, se bastasse lavorare una settimana in più per aumentare il PIL dell'1%, siamo veramente al ridicolo. Ma vorrei capire che cosa si possiamo leggere tra le dichiarazioni di Mario Monti. Mario Monti ha parlato poco fa, un'ora fa, un'ora e mezzo fa, ha detto i mercati sono convinti che non basti solo la Grecia. L'Unione Europea comunque non è la fonte del problema, il problema nasce altrove, nasce negli Stati Uniti. Però insomma è chiaro che le notizie sulla Spagna saranno piombate al vertice come un macigno, no? Più che al vertice, sicuramente tutti i presidenti, diciamo, che sono presenti qui hanno valutato con preoccupazione questi effetti del mercato. Due sono i messaggi di Monti. Da un lato, i mercati hanno ancora in mente alcuni vizi di origini sulla costruzione dell'euro, ma è compito di noi europei sanare questi problemi. È un compito intenso che attende i leader europei, soprattutto costruire una roadmap, a cominciare dalla riunione del 22 a Roma, quando Monti ha riunito proprio a Roma il cancelliere tedesco Merkel, il presidente francese nuovo François Hollande, il premier spagnolo Mariano Rajoy, e sarà quello, diciamo, il momento clou per la preparazione del Consiglio europeo del 28 e del 29. Altro messaggio importante di Monti: nessuno deve pensare che l'Unione europea sia l'unica fonte del problema. Fino a due anni fa ci dovevamo confrontare con il problema dei mutui subprime americani, c'era un problema semmai al contrario, cioè del contagio dall'America all'Europa della crisi americana. Ebbene, e adesso la situazione è cambiata, ma gli europei non hanno reticenze a risolvere i loro problemi anche al G20, ma è chiaro che la sede istituzionale per risolvere questi problemi è l'Eurogruppo e il Consiglio europeo. pioveva, era brutto tempo, il novembre, primi di novembre dell'anno scorso a Cannes l'ultimo, Nizza, sì. L'ultimo G20 con la partecipazione di Berlusconi, con un'Italia messa all'angolo. Vi ricordate cosa diceva la Lagarde, la Troica, gli osservatori, tutta la polemica sugli osservatori della BCE, dell'Unione Europea, del Fondo Monetario? Beh, l'Italia da parte del problema sta diventando parte della soluzione. Beh, allora, visto il periodo, prendiamo qualunque cosa come elemento positivo. Hai ragione a ricordare che all'ultimo G20 a Nizza, Cannes, in un clima plumbeo, c'era proprio questo scetticismo molto forte. L'Italia era in quei giorni obiettivamente considerata l'origine delle tensioni. Ancora Tremonti e Berlusconi, ricordate le tensioni enormi tra il ministro Tremonti d'allora e il presidente del Consiglio Berlusconi. Berlusconi che accusava Tremonti di non avergli fornito, diciamo, un accordo, anche grazie al Quirinale, per arrivare con un pacchetto di misure, per cui gli avevi fatto fare una figura peregrina a Cannizza. Adesso perlomeno non siamo noi quelli che vengono additati all'indice. Non vorrei però che lo diventassimo se continua così con la Spagna. Un'ultima domanda per Gerardo Pelosi, poi passiamo invece a Mario Platero, perché leggo le agenzie, Angela Merkel avrebbe detto: non ci sono spazi per rinegoziare gli aiuti alla Grecia, occorre invece la bozza che potrebbe uscire, una bozza in cui si chiederà di rompere il circolo vizioso tra le banche e il debito degli stati, e poi l'Europa farà passi in più per la stabilità. Guarda, è ancora presto perché sono le prime battute del G20, di più si saprà questa sera, quando si terrà una cena tra il presidente americano Obama e i principali leader europei. Sarà quello il momento chiave per capire dove si va a parare. Considera che sarà la prime ore della mattina di domani in Italia e in Europa, certo. E quindi soltanto domani avremo il quadro più completo. E alle 21.30... L'unica cosa che ha detto, sì. Che ha detto Monti è che comunque eventuali proroghe alla Grecia dopo il voto sul piano di rientro dovranno essere decise a livello collegiale dal Consiglio del 28. Ecco, sì, tra l'altro a noi risulta che alle 21.30 ora italiana dovrebbe esserci l'incontro anche la Merkel Barack Obama. Adesso ne parleremo con Mario Platero. Una battuta però, Gerardo, ma non potevano fare in un posto un po' meno vacanziero? Cioè, abbiamo già visto l'ultimo G8, tutti col maglioncino sul prato a fare picnic, non so, lo dico come immagine, boh, no? Almeno a Cannes, Nizza, c'era la pioggia. È un discorso che vale sempre, però consideriamo questo, è una presidenza, questa messicana del G20, di transizione, abbastanza debole, e spesso i leader locali, in questo caso Calderón, utilizzano, come dire, questi vertici per cercare di lanciare anche turisticamente o rafforzare la presenza di questo o quel posto del loro paese. Sì, un po' come abbiamo fatto noi con Genova, no? A Genova non aveva bisogno di essere rilanciato, ecco, in quel modo. E comunque non l'abbiamo ricevuto rilanciato. Allora, Mario Platero, che cosa hai avuto modo di vedere tu di una bozza che dovrebbe restare super segreta? Ma dunque, la bozza della dichiarazione finale è direi il documento su cui si sta lavorando e su cui lavoreranno i capi di Stato e di Governo, ma è il frutto di un lavoro dietro le quinte durato un paio di giorni. E ieri c'è stato questo incontro degli Sherpa, ricordiamolo, gli Sherpa sono coloro incaricati dai presidenti, i diretti rappresentanti dei presidenti o dei capi di Stato e di Governo a negoziare questo documento. Cosa so? Beh, so che è un documento lungo una decina di pagine, avrà un annesso, è un documento piuttosto lungo, si sono già trovati dei punti di accordo. Dunque faccio un passo indietro, dunque questo incontro è avvenuto in questo albergo Barceló, dove sono appunto gli Sherpa e dove c'è la delegazione americana. Noi siamo con la Casa Bianca e quindi siamo sistemati in questo albergo, ma semplicemente, sai, i controlli di sicurezza messicani magari sono stati un po' labili e dunque, avendo una giacca blu, mi hanno confuso forse per un delegato, e dunque sono entrato dentro la sala dove i 20 erano attorno a un grande tavolo quadrato a negoziare, momenti devo dire piuttosto interessanti in cui si vedevano i paesi emergenti su una posizione con i paesi industrializzati che cercavano di tamponare un pochettino alcuni problemi che stavano emergendo. Ti faccio un esempio: il Brasile, frattanto, non vuole dare ancora i fondi per l'FMI, e sono fondi importanti perché servono a costituire il firewall. Se non si riuscisse, quindi la barriera contro la speculazione, certo. Esatto, se non si riuscisse a chiudere questo accordo sarebbe un problema, e mi sono accorto che il problema esiste, che il Brasile in questo momento non vuole dare i soldi prima di aver incassato la garanzia che all'interno del Fondo Monetario Internazionale ci sarà una riallocazione delle quote più altre riforme. Dunque c'è una situazione di tensione, certo, su più livelli. Ma ti hanno, Mario, ti hanno poi beccato o sei rimasto tutto il tempo lì con la giacca blu che i messicani? Dunque, no, sono rimasto dentro, devo dire, in modo abbastanza amichevole, anche perché alcuni di questi protagonisti li conosco, li vediamo spesso nei vertici, si chiacchiera anche al di fuori dei vertici. Per esempio il capo della delegazione americana, Mike Froman, mi ha visto e dice: ma cioè, cosa fai qui? È assolutamente top secret, restricted area. E scherzava un po', allora ho detto: beh, dico, vedi Mike, tu fai il tuo lavoro, io faccio il mio. E devo dire è stato piuttosto interessante vedere per una volta dal di dentro come poi questi lavori funzionano in modo Mario, molto civile, ma anche molto teso. Abbiamo capito appunto che esistono dei contrasti che poi spesso non emergono nel lavoro vero, quello fatto dai cosiddetti Sherpa, che in realtà sono quelli che appunto fanno il grosso, di tensione tra quello che vogliono i paesi emergenti quanto a dotazione del Fondo Monetario Internazionale. Una domanda, ti chiedo una risposta brevissima. Barack Obama, Angela Merkel, questa sera, confermato l'incontro, secondo te Barack Obama tornerà a chiedere alla Germania di prendere posizioni più europeiste e più, diciamo, di antispeculative, cioè che blocchino la speculazione? Ma guarda, è già successo, perché la Germania in realtà, dopo essere stata isolata a livello europeo, ieri ho visto, ho toccato con mano quanto fosse isolata a livello globale, 19 paesi contro uno, si litigava su un termine per questo documento che era il termine relativo alla domanda, allo stimolo della domanda. La Germania non voleva utilizzare il termine domanda, alla fine si sono messi d'accordo. Un punto significativo, la svolta c'è stata quando è arrivato il risultato delle elezioni greche. Ebbene, c'è stato un momento di grande relax e quindi questa cosa poi è andata in avanti. Sappiamo però, per la reazione del mercato, e mi riferisco a questo anche a quello che ha detto il presidente Monti, che purtroppo le parole servono a poco. Dire che la crisi comincia con gli Stati Uniti nel 2008 non è una cosa che farà cambiare idea ai mercati, ci vogliono azioni, non credo che qui ci saranno. Ecco, temo anch'io. Hai 10 secondi per dirmi com'è, lo vogliono sapere gli ascoltatori, com'è che ti hanno beccato ieri mentre eri imboscato nella riunione del preparatorio? Ah no, beh, semplicemente perché ti ho detto che io conosco alcuni ti hanno accompagnato fuori, però. Sanno che sono un giornalista. No, sono rimasto e poi sono uscito. Devo dire, avrebbe potuto chiamare una delle guardie della sicurezza, ma non l'hanno fatto, sono stati molto cortesi. Bene. Sanno di potersi fidare. Se vede, tu hai spiattato tutto quanto in radio. Complimenti. Vabbè, grazie Mario Praterio allo Scavos. Sanno pure di potersi fidare. Cosa dobbiamo fare se non sorridere? La borsa. Meno 2,85% nel finale, Parigi meno 0,70%, Francoforte più 0,30%, Londra più 0,20%. Di nuovo oggi, come abbiamo, è dall'inizio del programma che ne parliamo, l'attacco va sui titoli bancari, il problema è la Spagna, ma chiaramente l'Italia non gode, bancari tutti in calo tra il 2 e il 5%. Vi do intanto, poi ne parliamo dopo nella seconda ora, i titoli positivi: ST Microelectronics più 3, Finmeccanica più 2 come Prismian, Mediaset più 1,20, Tods più 1,1 come Parmalat e Pirelli, Luxottica più 0,70%. Poi passiamo al petrolio, anche per cambiare ogni tanto tema, nonostante le pressioni che siano arrivate sugli spread spagnoli, il nuovo record 574, la Spagna è più a rischio adesso della, come misurazione del rischio, dell'Irlanda, tant'è che i suoi titoli di Stato, i bonus, rendono 7-14%, rendono più di quelli irlandesi. L'Irlanda però è già stata, tra virgolette, commissariata e salvata dalla Troica, la Spagna ancora no. L'Irlanda obiettivamente ha un peso molto diverso. Questo nel giorno in cui la Banca Centrale Spagnola ha detto che in realtà le sofferenze delle banche spagnole, cioè i crediti che difficilmente potrebbero tornare indietro le banche, crediti concessi ammontano a 157 miliardi, la cifra più alta dal 1996. In Spagna, chiaramente questo ha penalizzato anche l'Italia e le banche italiane, lo spread italiano è tornato a 467 punti e quindi non sorprende che Unicredit perda il 4,26, la Popolare Emilia Romagna è 4,70, Mediobanca il 5,30, Mediolanum il 5,50, Monte dei Paschi il 3,40, Popolare di Milano il 3,20, Ubibanca il 3%, Intesa San Paolo il 2,60. Ancora A2A ha perso il 5,1%. Tra chi è andato bene, citavamo i vari casi, beh, Microelectronics dopo lo scivolone legato a Nokia oggi recupera il 3%, Finmeccanica più 2%, qui ci sono analisi che dicono che potrebbero arrivare dei vantaggi dalla ristrutturazione di Augusta Westland e quindi consigli degli analisti che noi non riportiamo comunque mai, Prismian più 2% e Mediaset dicevamo più 1,25%. Oggi ha sofferto però anche Telecom Italia, meno 3,5%, nonostante abbia trovato sulla banda larga un alleato insperato, cioè il numero uno di Swisscom, che ha appoggiato il piano di Telecom Italia. E ancora tra i migliori e i peggiori in assoluto, cito sostanzialmente Creto Valtellinese meno 9,24%, tra i peggiori in assoluto, Ambro Mobiliare meno 22%, Archimedica meno 13,40%, First Capital meno 10,30%, tra i migliori Arena più 5,30%, Pquadro più 4%, Esprinet più 9,80%, Neurosoft più 14,6%. Adesso però ci occupiamo, come dicevo, non più di mercati, e tensioni sugli spread, tensioni sulla Spagna oggi in particolare, né del pensiero del sottosegretario Polillo che ha detto che bisogna lavorare una settimana in più per far risalire il PIL dell'1%, è una follia non lavorare una settimana in più, è una follia che dire che basti questo per far crescere il PIL, ma per favore, occupiamoci di petrolio. Eh sì, torniamo a occuparci di petrolio, o meglio di benzina, perché anche oggi cala Londra e New York, meno 2% a Londra e meno 2% a New York, preoccupano le tensioni in Spagna e anche comunque le incertezze che restano dopo l'esito del voto in Grecia, Brent a $95,6 al barile e a New York invece siamo a $82,30 al barile. Però resta il tema di un petrolio che costa 26 euro in meno al barile rispetto all'agosto del 2008 però la benzina è 24 centesimi in più al litro, quindi meno 29% il petrolio. Oggi è appunto, siamo intorno a un Brent intorno ai $95 però allora agosto 2008 era $147. 93 euro al cambio di allora, siamo a 70 euro al cambio di adesso. I misteri del petrolio. Nel frattempo oggi l'assemblea dell'Unione Petrolifera Italiana ha registrato una fattura record nel 2012 a 66 miliardi, la bolletta energetica italiana, cioè quello che il paese paga per approvvigionarsi all'estero di energia, nuovo record, 66 miliardi dicevo contro i 62,7 del 2011, e la sola bolletta petrolifera costerà 37 miliardi. Siamo in collegamento con il presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, il mitico, per chi conosce questo programma, Pasquale De Vita. Buonasera presidente. Buonasera a lei. Bello arzillo, come la bolletta. Anche... visto che era una bella sorpresa. Sì. Anche perché noi nel 2011 come paese abbiamo consumato di meno, purtroppo, perché la crisi ci ha fatto abbattere i consumi. Anche i prezzi, ci saremmo aspettati di pagare una bolletta più bassa. E invece contro i 35 miliardi dell'anno scorso, quest'anno pagheremo 37 miliardi, e questo è dovuto tutto

No, era il ministro Romani, lasciamo perdere qual era il mio, comunque non era Romani. Vabbè. E quindi comunque, ma cosa vuol questo, dire? Ecco perché io dico che bisogna purtroppo che anche posso dare una battuta sul mezzo di informazione. Sì. Noi stiamo sempre correndo dietro al centesimo. Io l'anno scorso, durante l'estate, ho visto al telegiornale delle 8 della sera della Rai, l'ammiraglio della Rai, che c'erano i titoli di testa. Il primo titolo era un centesimo di aumento sulla benzina. In quei giorni si stava chiudendo una raffineria con problemi di posti di lavoro, problemi di indotto, non neanche una parola, però il centesimo sulla benzina era al primo posto. Quindi diamo informazioni. Noi abbiamo un grosso problema, abbiamo una crisi della raffinazione dovuta al fatto che sono calati i consumi, l'esportazione è diventata più difficile e cominciano ad arrivare navi di prodotto nel Mediterraneo dall'India pure, cioè dall'Estremo Oriente. Il Medio Oriente ha già annunciato che il suo grosso potenziale di raffinazione sarà utilizzato per esportare prodotti. Ecco, noi dobbiamo affrontare questo tema, ma non noi Italia, noi Europa. Noi invitiamo, e il governo su questo, devo dire la verità, è stato abbastanza attento fino adesso, noi dobbiamo fare in Europa qualcosa per vedere come risolvere il problema della raffinazione. De Vita, vorrei concludere con lei. Segnalo, non posso leggere molti dei commenti che le stanno arrivando. Molti ascoltatori sottolineano che di lineare nel rapporto prezzo del petrolio e prezzo della benzina c'è solo, diciamo, quel volatile che tende a volare a bassa quota, quello è molto lineare, però molti anche, lei mi ha già risposto, cioè se l'Eni può abbassare di 20 centesimi e oggi c'è l'annuncio che altre compagnie, Esso con SafePlu, Kuwait con Kuwait Easy, beh, questo vuol dire che i margini per abbassare un po' ci sono, punto e basta, dai David, non stiamo sempre a menarcela su questo. Poi giustamente sono privati, vogliono guadagnare il massimo e il governo sarà quello che deve fare moral suasion e abbassare un po' le accise, ma non mi dica che stanno soffrendo i petrolieri con una bolletta energetica record. Dai, lei oggi nel suo intervento all'assemblea dell'Unione Petrolifera Italiana ha anche detto c'è un problema con i distributori di carburante, devono scendere dagli attuali 24.000 a 15.000, massimo 18.000. ma le compagnie petrolifere, quando ci fu il decreto di liberalizzazione, si opposero al fatto che la pompa di benzina potesse andare a comprare la benzina alla compagnia che praticava il prezzo maggiore. Voi vi opponeste, ci fu un cartello su questo allora? Non abbiamo fatto nessuna resistenza, noi dalla liberalizzazione che è stata fatta non siamo completamente soddisfatti, qualche cosina è arrivata. Noi dobbiamo pensare di, e questo può essere un compito al quale noi possiamo partecipare, di spingere la clientela a essere più attenta a quelle che sono le offerte di mercato. In Italia ci sono 7-8 mila impianti che fanno il prezzo europeo, in certi momenti anche molto più basso di quello europeo. Però bisogna andarli a cercare, bisogna scendere dalla macchina e andarsi a fare il rifornimento. Poi ce ne sono altri migliaia che invece danno il servizio, costano di più e sono antieconomici forse anche per le aziende. E allora qui deve essere l'utenza che deve scegliere. Noi dobbiamo spingere l'utenza ad andarsi a cercare le cose. Sì, secondo me adesso lei... Anche perché gli impianti, attenzione, il 50% degli impianti non è delle aziende, e di migliaia di piccoli operatori che portano il valore dell'azienda. Quindi quelli, gli unici che possono chiudere questi impianti, che sono antieconomici anche per l'azienda, sono gli utenti. Io torno sempre a dire che quando si apre un supermercato non è il supermercato che decide che devono chiudere i negozi attorno, è l'utenza che a un certo punto va al supermercato e chiude, fa chiudere i negozi attorno. Sì, devo dire, va bene, però aveva anche un senso da parte vostra, Presidente De Vita, dire sia la liberalizzazione, cioè non è che possiamo pensare che di eliminare 8.000 stazioni di benzina in un annetto e che questo porti un abbassamento dei prezzi, se poi voglio dire le compagnie petrolifere su questo non ci sentono, mi sembra un po' una follia. E comunque, se siete d'accordo che da lì possa passare un abbassamento del prezzo, mi dispiace, bisognava dire ok, liberalizzate tutte le pompe di benzina, ognuno vada a acquistare il carburante da quello che fa il prezzo migliore e poi li si mette in concorrenza. Non so, mi sembra un po' come sempre la filiera, cioè i produttori scaricano le colpe sui distributori, sulle pompe di benzina, i benzinai sono arrabbiati con le compagnie petrolifere. Io devo chiedere una cortesia a Leonardo Maugeri, che è in collegamento con noi da Harvard. Lo riavremo domani perché abbiamo troppo poco tempo adesso, e il ragionamento che lui fa invece sul tema del petrolio è un ragionamento importantissimo, perché vi anticipo, ha sostenuto in un bellissimo articolo, in un'analisi che uscirà tra poco, che il prezzo del petrolio è destinato probabilmente a crollare nei prossimi anni, 2015, perché c'è un eccesso di offerta su questo. Devo però dare ancora una notizia, perché l'avevamo annunciata in apertura, che riguarda l'ipotesi, quindi Maugeri, grazie anche a lei, ci risentiamo domani, l'ipotesi che i dipendenti pubblici ultra sessantenni possono avere uno scivolo con un'indennità dell'80%, però calcolato sulle sole voci stipendiali, non sull'intero trattamento economico. Il taglio potrebbe arrivare quindi, rispetto alla retribuzione piena, al 50%. Stiamo parlando di 231.000 persone sopra i 60 anni, 25.000 delle quali nei principali comparti dello Stato. La nostra Anna Marino ha raggiunto Gianni Baratta, segretario confederale della CISL. Tutte le cose che abbiamo saputo le abbiamo sapute dai giornali. Nessuna anticipazione da parte del governo. Abbiamo peraltro richiesto un incontro al ministro della funzione pubblica Patroni Griffi e al ministro Giarda per avere contezza di come, rispetto alla spending review, si vuole operare sui presunti tagli alla pubblica amministrazione, ai lavoratori. Ricordo che noi il 3 maggio abbiamo firmato un accordo sindacale con il ministro Patroni Griffi e con regioni, province e comuni, in cui nell'ambito di un nuovo modello di relazioni sindacali sui temi della spending review e sulle ricadute che queste possono avere sui lavoratori, abbiamo stabilito insieme che ci sarebbe stato un confronto, che non significa un accordo sindacale, ma un confronto per conoscere le modalità con cui il governo vuole operare. Questo confronto ancora non c'è stato, noi riteniamo che sia assolutamente necessario realizzarlo prima che le decisioni vengano prese. La risposta del governo che attendete, se non arriva, cosa fate? Sicuramente, se ci fosse un'altra operazione che scarica solo sui lavoratori dipendenti le sforbiciate più grosse della spending, premesso che ovviamente noi siamo d'accordo se i tagli vengono fatti sulle auto blu piuttosto che sugli appalti, piuttosto che sulle consulenze, tutti quegli sprechi di cui abbiamo denunciato anche noi negli ultimi anni con valutazioni circostanziate, non è che siamo contrari, ci mancherebbe altro, però riteniamo che i lavoratori pubblici che hanno già dato un loro contributo pesantissimo, ricordo che i contratti nazionali sono bloccati dal 2009, la contrattazione integrativa praticamente non si fa, ci sono stati negli ultimi anni una fuoriuscita di più di 100.000 dipendenti pubblici, insomma riteniamo che il contributo sia stato già pesantissimo, ci sono fra l'altro molti vuoti in alcune amministrazioni, terremo opportuno che questo dato dei tagli, se è vero e se è confermato, ci fosse spiegato e ci fosse spiegato anche la motivazione e le modalità con cui intendono gestire queste operazioni. Staremo a vedere una risposta a chi ci dice: guardate che la maggior parte del costo dei carburanti sono le accise, lo diciamo mille volte, IVA e accise pesano per il 67%, il 33% è il prezzo del petrolio, ma anche su quello si può a nostro avviso intervenire. Comunque noi ci risentiamo domani, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata.